Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È uno dei libri di cui si sta parlando maggiormente negli ultimi tempi, come abbiamo già detto oggi pomeriggio nell'appuntamento pomeridiano del Sabato del Villaggio. Lui è Emmanuel Carrère, uno degli scrittori francesi più conosciuti, più amati, non solo in Francia ma anche nel resto del mondo, e il libro si intitola Il Regno, pubblicato da Adelphi. Carrère, lo ricordiamo, era diventato famoso in tutto il mondo per aver scritto Limonov, la biografia di questo dissidente russo, ma ci sono anche altri romanzi, altri libri che secondo me vale la pena di leggere, uno fra tutti, L'avversario. In questo libro, Il Regno, Carrère racconta un po' la nascita del cristianesimo, soprattutto attraverso i racconti che erano stati fatti da quello che poi è diventato San Paolo e da Luca, ma lo racconta sempre relativizzandolo alla sua esperienza personale. Cioè Carrère racconta di quando a un certo punto della sua vita ha avuto una crisi, non riusciva più a scrivere e si è avvicinato alla religione, da agnostico quindi si è avvicinato alla fede. Per 3 anni è stato fortemente credente, andava a messa tutti i giorni, e poi invece è tornato nuovamente agnostico. A distanza di anni ha ritrovato nella sua soffitta questi 18 quaderni nei quali aveva preso appunti durante il periodo, diciamo, da credente. Aveva preso appunti sui Vangeli che leggeva quotidianamente. Io trovo che la prima parte di questo libro sia veramente molto bella, perché racconta proprio la parte più intima dello scrittore, di Carrère, il suo avvicinarsi alla fede. La seconda parte invece è più saggistica, perché viene appunto raccontata la nascita della religione cristiana, anche se sempre con lo sguardo di Carrère, e raccontata, narrata in modo accattivante, insomma. Ma come si è sentito Carrère quando a distanza di anni ha riaperto questi quaderni, questi diari? In genere quando si rileggono i diari scritti da giovani così si prova anche un po' di vergogna per come si era e per come invece poi si è diventati. Carrère invece che reazione ha avuto? Sentiamolo. E soprattutto un po' d'embarras. Voilà. Un po' d'embarras. Soprattutto un po' di imbarazzo. Un po' di imbarazzo, direi, nel rileggerlo. Non vergogna, perché effettivamente non avevo fatto nulla di male. Un po' come quando si guardano le vecchie fotografie in cui si vedono magari capigliature un po' strane, abiti un po' strani. Ci si sente come se si fosse stati quasi un po' ridicoli. Però a me è sembrato interessante tornare a quel periodo in cui avevo letto e commentato il Nuovo Testamento. Il periodo in cui ero stato vicino alla religione con fervore e anche con dogmatismo. Lei spiega proprio chiaramente nella prima parte del libro che era in un momento di crisi della sua vita, non riusciva a scrivere romanzi, per esempio, mentre continuava a fare naturalmente altri lavori di scrittura, e si è trovato quasi ad un bivio, la psicanalisi o la religione, poi in realtà o la fede, ha portato avanti entrambe. Visto che lei stesso cita la famosa frase di Marx, insomma, che la religione è l'oppio dei popoli, la psicanalisi cos'è? Allora, il y a une tendance contemporaine. Ultimamente c'è questa tendenza a voler attaccare la psicanalisi, pensando che sia una sorta di truffa. Ci sono molti giudizi polemici sulla psicanalisi. Però io, per la mia esperienza personale, devo dire che sono grato alla psicanalisi. Per me è stata molto salutare. Usando il termine salutare, non credo che rappresenti una via per la salvezza. Non ha niente a che fare con la religione. Ma sicuramente la psicanalisi mi ha aiutato molto nella vita, più di quanto abbia fatto la fede. E non l'ho percepita come un oppio, ma piuttosto come un percorso di liberazione, di accesso alla propria verità, alla propria via. Quindi non sono un deluso della psicanalisi. Intendiamoci, sono d'accordo nel dire che l'opera di Freud non sia scientifica, ma nonostante ciò provo una grande ammirazione per Freud, anche come scrittore. Per me Freud è come se fosse una sorta di eroe intellettuale per la sua audacia, il suo coraggio, la sua invettiva. Certo, sono d'accordo sul fatto che Freud non sia scientifico e che la psicanalisi non funzioni sempre. Bisogna essere degli idioti per poter pensare che la psicanalisi sia una specie di rimedio allo stesso tempo magico e scientifico. Ci sono molte frasi che mi hanno colpito nel suo romanzo, infatti come vede lo sottolineate a matita. Lei a un certo punto scrive: penso che dietro ogni conversione a Cristo ci sia una frase e che ognuno abbia la propria fatta per lui, che lo sta aspettando. La mia è stata questa: lasciati portare, non sei più tu che decidi dove andare. Abbracciare la fede è anche un voler rinunciare alle proprie responsabilità. Lei l'ha vissuta come una liberazione dal dover decidere cosa fare, cosa era giusto, cosa non era giusto. Alors, en vous écoutant relire cette phrase. Mentre l'ascoltavo rileggere questa frase, che continua a rappresentare per me una sorta di mantra, stavo pensando che la stessa cosa possa valere anche per la psicanalisi. Credo che sia una buona definizione anche per la psicanalisi. Qualcosa che ti porta ad andare verso una direzione a cui non avevi pensato. Un percorso che non avresti voluto intraprendere. Quindi, certo, è positivo realizzare le proprie ambizioni, ma è molto meglio fare altre cose che non avevamo previsto, intraprendere una strada non considerata in partenza. E la psicanalisi permette di fare questo. Secondo me, quando viene fatta bene, permette di scoprire dentro se stessi dei percorsi che non avremmo mai pensato di voler seguire, che magari inizialmente non consideravamo neanche desiderabili. E invece ci accorgiamo che lo possono essere. E in tal senso penso che la psicanalisi e la fede possano andare di pari passo. Per quanto riguarda la seconda domanda, abbracciare la fede per me non è qualcosa che toglie la responsabilità, la consapevolezza. È piuttosto una sorta di abbandono alla potenza dell'incoscienza, alla potenza della vita, che spesso sono la stessa cosa. E credo che questa sia una delle più grandi virtù che si possano avere, la capacità di abbandono, di lasciarsi andare, di accettare di lasciarsi plasmare e non volere a tutti i costi tenere tutto sotto controllo. Penso, e ciò è molto curioso, dato i punti che hanno in contrasto tra loro la fede e la psicanalisi, che invece questo sia un insegnamento comune a entrambe. Un enseignement commun de la foi dans le meilleur sens du terme et de la psychanalyse. Oggi lei si definisce agnostico e anche in molte altre interviste ha detto che ha approcciato la storia del cristianesimo, di questo primo gruppo di persone, Luca, Paolo, che poi hanno fondato, insomma, hanno contribuito a fondare la religione, il cristianesimo, ha voluto guardare a questa storia con lo spirito da investigatore, lo scrive proprio nel libro. Cosa vuol dire? Au fond, dans le cristianesimo. In fondo, nel cristianesimo, quasi tutta la storia di Gesù è praticamente accettabile perché c'è la parte umana, c'è la parte razionale. Insomma, ci sono tante componenti accettabili. È la storia di un predicatore che dice delle cose su cui si può essere d'accordo o meno, ma sta di fatto che esse rappresentano una certa visione della vita. Si parla di Gesù anche come guaritore. E poi, a un certo punto, c'è la storia della sua resurrezione. Una resurrezione di cui in fondo non si sa molto. Non è nemmeno descritta nei Vangeli. Si parla vagamente di una sorta di apparizione molto misteriosa, fuggitiva. Ecco, questo è il punto a cui volevo arrivare. Il fulcro della fede cristiana consiste nella fede nella resurrezione. Ma questa resurrezione di fatto non fa parte del sapere concreto. È proprio in questo senso che mi sento agnostico. Su questa questione non ho niente da dire. Posso provare a indagare su quello che era successo, ma non affermare che sia avvenuta veramente, oppure dire qualcosa sulla resurrezione in generale. Posso dire magari che io non ci credo, ma anche se lo dico, a chi importa questo? Posso raccontare qualcosa invece delle persone che ci hanno creduto, delle persone da cui è nata tutta la storia e che poi è continuata nei secoli. Sì, su questo si possono fare delle ipotesi. Sulla resurrezione di Gesù, invece, non ci sono abbastanza elementi per investigare e quindi non può far parte della sfera dell'immanenza. Come dicevo prima, è su questo punto che mi sento agnostico. Tutto il resto, invece, fa parte della storia e non dell'agnosticismo. Ovvio, non vuol dire che si ha accesso a tutte le informazioni, ma ci si trova nel registro della storia e non del sovrannaturale. Invece, la resurrezione è il fulcro del cristianesimo in termini sovrannaturali. Poi sì, ci sono altre cose, come ad esempio la verginità di Maria, ma sono dei punti secondari, in secondo piano rispetto al resto. Sicuramente il punto più difficile da metabolizzare, che è anche quello centrale, è proprio la storia della resurrezione. Il cuore del trucco difficile da avvalere è la resurrezione. La fede è di per sé assoluta. Lei stesso dice che nel momento in cui aveva fede, credeva profondamente a tutto, anche a cose che razionalmente non riusciva a giustificare. Quando però la fede, che è assoluta, rischia di diventare estremismo religioso? Bien sûr, je pense que bien sûr que la foi qui quando la fede abdica, perde lo spirito critico, e allora sì che corre il rischio di cadere nel fanatismo. Questo accade sempre, non ci sono eccezioni di alcun tipo a questa regola. Ma penso che la fede possa anche essere intesa in un modo diverso. La rigidità e il fanatismo non sono degli aspetti inscindibili della fede. Lei è considerato uno dei massimi esponenti, il padre, insomma, dell'autofiction, anche se so che è una parola che non ama molto. Insomma, mette sempre le sue riflessioni, qualcosa di sé, nei suoi libri. Prendo per esempio come spunto L'avversario, era un fatto di cronaca vera, ma c'erano le sue riflessioni personali sul ragionamento del protagonista. E anche nel Regno ci sono tutte le sue considerazioni personali. Lei ha detto in un'intervista che raccontare la mia vita privata non mi spaventa, è liberatorio, quasi fosse una terapia. Ma ha detto anche che scrivo per diventare un essere umano migliore. In che senso? Oui, oui, c'est un peu quand je dis un être humain meilleur, c'est pas seulement. Sì, quando dico uomo migliore, non è che intenda soltanto in senso morale. Lo intendo nel senso di un modo di vedere più ampio, una visione più ampia di tutta l'esperienza umana, un'esperienza più libera, più amorevole. Potrei dire anche con più compassione, più benevolenza. Certo, diffido un po' da queste parole, però c'è un po' di tutto questo. Quindi, migliore come essere umano, ma anche meno ignorante e alienato. E la scrittura penso possa accompagnare questo tipo di iter. Almeno, è quello che io spero. E questo era Emmanuel Carrère che ci parlava del suo nuovo libro Il Regno, pubblicato da Adelphi. Oh, e adesso finalmente parliamo di un'iniziativa che mi piace tanto. Sicuramente ne avrete già sentito parlare perché insomma è da più di un mese che è in circolazione. Per esempio, se frequentate Twitter c'è l'hashtag Io Leggo Perché. È un'iniziativa promossa innanzitutto dall'AIE, che è l'Associazione Italiana Editori, ma poi ci sono anche altri, poi lo diremo nel dettaglio, che vuole promuovere la lettura fra le persone che generalmente non leggono tanto o magari hanno perso per tante ragioni il gusto di leggere, magari non so, si sono fatti distrarre ormai da altri strumenti tecnologici e non hanno più il gusto e il piacere di acquistare e di leggere un libro. E allora ne parliamo un po' con l'idea, con il cervello di questa iniziativa, che è Laura Donnini, che è amministratore delegato di RCS Libri ed è anche vicepresidente appunto dell'Associazione Italiana Editori. Laura Donnini, ogni volta che sento la parola iniziativa per promuovere il libro, come dire, mi vengono un po' di brividi, perché in genere sono cose polverose, noiosissime, poco concrete, dove insomma alla fine non si arriva da nessuna parte. Questa iniziativa invece mi è piaciuta perché mi sembra concreta. Iniziamo a parlare dei messaggeri. Allora, che cosa succederà il 23 aprile, che è la giornata mondiale del libro? Ci sono giornate mondiali per tutto e c'è anche quella del libro, naturalmente. Chi sono i messaggeri e che cosa faranno? Allora, lo spirito dell'iniziativa è esattamente quello di essere concreta, non convenzionale, diversa e di saper parlare il linguaggio dell'oggi e soprattutto con la capacità di accendere una passione. Chi sono i messaggeri? I messaggeri sono i nostri lettori più appassionati. Li abbiamo scelti o comunque si sono iscritti. Sono volontari. Sono stati costretti. Sono volontari, sono persone che sono entrate, diciamo, in contatto con l'idea dell'iniziativa e in maniera entusiasta hanno aderito iscrivendosi al nostro sito www.ioleggoperché.it. L'80% dei nostri messaggeri sono donne e 10.000 circa. Forse 9.000 qualche cosa di questi messaggeri sono studenti universitari. Che sono poco meno della metà, perché adesso avete complessivamente 25.000 persone che vogliono fare i volontari messaggeri. E nella giornata del 23 aprile vogliono affidare dei libri ad altrettanti non lettori o diciamo lettori dormienti o lettori morbidi. Lettori dormienti mi piace molto. Esatto. Insomma. Quindi io diciamo faccio il messaggero, facciamo capire, ho voglia di fare il messaggero, vado sulla piattaforma, vado sul sito ioleggoperché.it, mi iscrivo, il 23 aprile qualcuno, insomma l'organizzazione mi consegnerà Dalla fine di marzo ogni messaggero viene gemellato ad una libreria o ad una biblioteca, va a ritirare il kit è rappresentato da uno scatoletto con un certo numero di copie di questi 24 romanzi, con uno zainetto, la maglietta e tutto, e il 23 aprile i messaggeri affideranno questi libri sui treni di Trenitalia. Quindi il nostro pensiero era: trasformiamo questa iniziativa in una grande manifestazione che colpisca in maniera virale e con una rete, che è una rete fisica, è una rete virtuale, da qui l'idea dei treni, certo, collegando in tutta Italia, e praticamente affideranno questi libri a delle persone, possono essere anche amici, ma possono essere anche persone conosciute casualmente. Noi abbiamo scelto 24 titoli, che sono 23 romanzi più un titolo di Daniel Pennac, che si intitola proprio come un romanzo, i libri, i romanzi di narrativa che più hanno entusiasmato, diciamo, i lettori in Italia. Sì, anche perché insomma, se bisogna trascinare qualcuno a leggere, magari non ha mai letto, certo non si può iniziare dal Maestro e Margherita, non so, ne dico uno a caso che è ostico come lettura. Non dico che deve essere semplice, ma deve essere sicuramente un romanzo accattivante. Quindi ci sono anche dei bestseller nella vostra lista, facciamo alcuni esempi. Ci sono dei bestseller e tra l'altro colgo l'occasione anche per ringraziare gli autori che in maniera molto generosa hanno donato, diciamo, questi libri. Nel senso che non prendono royalties. Esatto. Abbiamo autori italiani, ne cito qualcuno: Silvia Vallone, Alessandro Baricco, Massimo Carlotto, Sveva Casati Modignani, Andrea De Carlo, Margaret Mazzantini, ma abbiamo anche Luis Sepulveda, abbiamo Daniel Pennac, c'è Caledo Seini e poi Andrea Vitali, Marcello Simoni. Abbiamo cercato di spaziare tra romanzi di autori noti ma anche meno noti, di editori grandi ma anche piccoli, che in qualche modo offrissero un ventaglio di scelta. Quindi questa è un'iniziativa molto concreta, quindi chiunque viaggerà il 23 aprile sui treni di Trenitalia potrebbe imbattersi questi simpatici messaggeri. Ma non solo, perché in 5 città che sono oltre a Milano, Cosenza, detto, Sassari, Vicenza e Roma, esattamente, lo dico prima di lei, sono state attivate delle iniziative che noi abbiamo chiamato Piazza un Libro, che richiamano molto i flash mob. Sono iniziative, anche in questo caso, organizzate da volontari, che in piazze messe a disposizione dal comune attiveranno reading, attività di book crossing. Sarà una grande festa in alcuni luoghi di queste città. Ad esempio, a Cosenza l'università è stata il motore di questa iniziativa e c'è un calendario di eventi veramente veramente ricco. Ci sarà Rai 3 che farà una serata speciale proprio in diretta da Milano per celebrare questa giornata mondiale del libro e questi messaggeri che veramente porteranno libri dappertutto. Aggiungo una cosa importante: anche le università sono state un bacino importantissimo sia per reclutare ancora una volta i messaggeri, ma anche perché abbiamo deciso di coinvolgere questi giovani nella realizzazione di video amatoriali che in qualche modo esprimano la loro idea di lettura. A questo proposito è molto bello il fatto che appunto è stato creato questo hashtag Io Leggo Perché, ci sono i social molto attivi, quindi c'è Twitter, c'è Facebook, c'è banalmente insomma anche la piattaforma di Io Leggo Perché, e ognuno scrive un po' Io Leggo Perché, ma Laura Donnini, che lavora nell'editoria con i libri da un tot di anni, non diciamo quanti, insomma, che ha delle posizioni di vertice, Ormai ha ancora il piacere di leggere un libro? Alla domanda io leggo perché, lei che cosa risponderebbe? Io ho twittato. E ho twittato la verità, e cioè io leggo perché ogni volta vivo una vita diversa. E per me è spaziare, vivere mille vite, ed è un piacere che credo nessun'altra attività mi può dare. Quindi se lo dice Laura Donnini, insomma, che come dire, ha una certa esperienza nel campo dell'editoria, veramente secondo me non ci si annoia mai a leggere i libri, perché sono poi così diversi, così tanti, hanno così dei tagli, degli stili diversi, che veramente ce n'è per tutti i gusti. E allora invitiamo anche gli ascoltatori di Radio 24 a twittare "io leggo perché". Se volete mi potete anche mettere in copia il mio riferimento è Ale Teddina, perché mi farebbe piacere, insomma, capire anche gli ascoltatori, il cacciatore di libri, perché leggono, che cosa ci trovano in un libro. E allora io leggo perché, grazie a Laura Donnini, insomma ideatrice di questa bella e concreta iniziativa, diciamolo per una volta, vicepresidente dell'AIE e amministratore delegato di RCS Libri. Vi ricordo che questo progetto, oltre l'associazione editori, è realizzato in collaborazione con l'associazione dei librai, l'associazione delle biblioteche, il centro per il libro e la lettura, Milano città del libro 2015, quindi anche dal Comune di Milano, e poi il contributo della RAI, perché sappiamo che ci sarà questa trasmissione in diretta. L'appuntamento, allora, mi raccomando, 23 aprile su tutti i treni di Trenitalia, ma soprattutto se volete fare anche voi messaggeri, iscrivetevi a ioleggoperché.it. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che come sempre trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast, radio24.it, c'è il nuovo sito, ma insomma riuscirete sempre a trovarci sotto il Cacciatore di Libri, c'è tutto l'archivio delle puntate. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.